kind of stopped me for years ever since I've been radio. Back in the 60s, they ain't stopped me. You know, and they try. You know, they try all they want to. Dude, I talk to you when he talks. That's just the way it is. That's a junkyard. Yeah, I might be in there. No doubt about it. Set up, man, and he spoke to Big Nasty, and they talk with him, and we ain't no yes man to each other. Call me in, I see. I heard that on the radio earlier, and I just thought I'd put that out there. Me, I know, me, you know, we don't have to be nobody's yes man, but now, the funny one, you got your funny one over, you'll be a yes ma'am, yeah. Nobody know what's up. mi documenta. La otra nueva otra vez, la otra nueva, a ver si me copiando. Pure io fondo scala cla audio per forza per poco batto la testa. Più umani dobbiamo essere, se no mi metto l'eco. Dimmelo! Buona tarde, buona tarde. Come sta la cosa? Oye, thanks for the stop. Stavo io in canale 7 ahí, hablé con un forestay, Motormouth Mall. El tipo es un gringo de ojos azules y cuando el tipo aprieta, los prietos le tienen un odio de madre. Ese mismo es el tipo tiene tremendos aparatos, la antena del tipo mide 100 pies de largo. Yo hablo con él todos los días. Handleless Motormouth. Ajá, el tipo suena como si tuviera un FM radio station para oír música. Ajá. No como tu socio, tu sobrino. Oye, sí. Oye, podemos hablar después también de Dinner Key. Esto estaba bueno, la transmisión esta de Dinner Key. Hablamos después. Let's Dipper, clear. Capito. Hola. cosa c'è, cosa c'è. Ciao Antone, buonasera. Ciao Fra, buonasera. Senti Antone che provo a aprire il monogatto, vabbè come ti arrivo, io ho aperto appena LC. E prova. Ciao, Antone, mi senti? Sì, certo. Ma te lo propone, so qui c'è. Sì, ciao Antone, mi sentito. Ciao Fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ho aperto appena la LC. No, vedo che cosa, la LC 5, con picchi positivi. Va bene come radio, sono la fra ancora, ma già va bene così, dai. No, no, già va bene così. Ciao Anto, ben sentito. Sì, ciao. Allora, come andiamo? Meglio così, meglio così. E allora? Via, a bomba qua. Imbarrato. Imbarrando e barrende. Allora guarda che c'era 140 in vendita. Mi sembra che volevo 325 euro se non mi ricordo male. No, 300 euro sta pagando. Vabbè, ormai se la via in Napoli. Io so di aspettare così adesso. C'è il Saturno, ecco qua. Ce la pago per le bollette, altro che baracchino. Raga, per lì. Per il momento mi pago le bollette. C'ho la bolletta da pagarmi questo mese. La rete l'organizzazione della modessa, poi adesso vediamo un po' la luce, ci vuole poco arrivare la luce, perché questo mese è prima di aprire, diciamo se mi è arrivato il gas, 32 euro. No, sei contento? Lui adesso contento, paghiamo solo tasse e basta quest'anno. Vabbè, sono un metro che non sei arrivata. 500. E quindi devo andare via Vatner e farmi fare pagare 100 euro al mese, capito? E se non mi avevi preso il baracchino, quello che sta dicendo Franco. Ah, 500 euro, è arrivata pure a Sara, mi pare, quasi 200 euro la tavola, l'abbiamo pagata. Tu figli di Dina, e da voi c'è sempre differenziata da qua, differenziata da qua, con quella della e la differenziata già ci guadagnano loro, capito? Purtroppo è così, che non ci può fare niente, ma c'è un bel gente così, deve pagare tassa bollezza, chi 10.000 euro, chi 5.000, poi c'è la luce, e c'è la gente. Sì, no, non ne parlo dei locali che ancora i kiwi comincia già da 2.000 euro in su, dipende quanto ve lo mano lo locale, cioè. Ah, c'è uno che lavora a fare cose, ma roba da matti. Buonasera a te. Come sta arrivando la tassa bollezza? Ma va, tu Giorgio Gianni. Ciao Franco. Ma ho detto, vi hai fatto sordo, cazzo. Ce l'avevo le cuffie. Ho detto, sta arrivando la tassa bollezza. Si sta lì che stava la mano in banca. 240 euro a me mi è arrivata già. Me l'ho già pagata. 240. Cappa di positivo. Cellula. A me 500, però devo comprare 2 anni, quindi e sono, mi sembra 2016-2017, tutto il resto l'ho già pagato, quindi vabbè, devo pagare quello, poi c'ho a pagare il condominio, e ce ne devo da pagare, la luce adesso, sono già spaventato quando arriva perché ho le stufelle qua io. Come mai fra così tanto? Ero da nessuno già. Non lo so. Ma risulta che siete in due? No, negativo, io da solo, cos'è in due? Ci sono solo io a casa. Non capisco come facciano. Vai a protestare. Non è possibile. Almeno che sia di 2 anni. 2 anni, non è un anno, è 2 anni, capito. Vabbè, me l'ha pagata già. Tanto devi pagare. Per forza, capito. Non so da ripagare. C'è da ripagare il canalizzatore da casa. Ma adesso arriva la luce. E la luce mi è arrivata a 200, 40 euro il mese di gennaio, capito? Non è vogliato di là regalare che ci passate. Perché poi se tu vai a guardare il tuo cantondassimi, no? Non venne di consumo. Cosa vai consumato? 50 euro di ruti. Vai 70 euro di ruti, cosa vai consumato? Cioè, ma veramente gente così ignorante, se tu guarda, non voglio neanche parlare, insomma, rabbieggio. Sì, ma la luce ha anche aumentato il 40%, lo so se vi spiego. Cioè, se io prima ne pagavo 60, adesso ne sto pagando 130. Quando 130 è andato bene. A me mi è arrivato 220 in un mese. Ma io ho fatto un esempio, non è che ne ho pagato 130, lo so. Si consuma perché scalda bagno, tutto tanto, asciugacapelli, queste cose consumano più delle altre cose, più del frigorifero. Oltre a me con le mani fredde ti caccareggi. Oh, ma assolutamente, no, io c'è la casca da bagno, l'acqua calda se conosco, no, no. E purtroppo cosa fai, devi lavare, la lavatrice è minimo da avere attaccata, se no no, la vuoi fare la lì. Cioè, se uno si lava a regolare tutto, se no, come ti fai? Cioè, se uno è troppo bene, no, ma uno che si cambia tutti i giorni, che ci dava, minimo quasi una volta la vita e la faccia deve andare. E infatti tu pensa che io gli arrivi con la luce ogni mattina, i 6, 7 mesi con la luce, ogni giorno, capito? Chiaramente non è un'acqua bollente, acqua tiepida, e beh, dalla fattrice la puoi attaccare ogni due giorni. Ogni due giorni è proprio il minimo, cioè se poi, come siamo noi, ogni di ciambatti, ma se c'è, cioè, soprattutto io che sono tutto barbacolare, anche Sara ogni giorno, cioè la lavatrice purtroppo la devi fare, se un giorno non la fai, l'indomani la devi fare per forza. Cosa fai? Bisogna solo attaccarla negli orari, nelle fasce orarie dove consumo meno. Ah, di solito la attacco o di notte o la mattina presto. Qua, la devi attaccare dalle 8 in poi, dalle 8 ti fai il bucato, quanto durerà un'ora, dalle 8 alle 9 va benissimo, perché la fascia oraria da, dalle 8 in poi sino alle 8 di mattina è minima. Così dicono, nella fascia oraria lì fatto il voto di notte. Guarda che si potrebbe andare a laterale, vale. Non sento nessuno che manda a laterale. Io sì. E pure io risento già. Cavagava, comunque è una cosa che non si può più vivere adesso, con lo stipendio non ve la fai più a vivere. Ah sì, ma tu vai con la impresa al sabato, no, la verità è poca roba a casa. Tu 90 euro mi uccide più. Cioè, ma roba la macchina, cioè, non si può manco comprare nulla. Adesso questa settimana un pochettino di meno, perché la roba c'è roba. Bisogna andare dove si risparmia, dove ci sono le offerte, sono che se uno non guarda gli sconti così, i volantini, bisogna andare quando ci sono le offerte e prendere la cosa in offerta e risparmia. Sì, mi risparmia la pepina. Si risparmia, anche frega. Per dire, a volte da Mura qua vicino a casa costa di meno che da Italy, la roba, la prendo un po' da Mura, quando mi conviene la prendo da Italy, non la mai di più da nessuno, io guardo, mi interessa e insomma, io non è che posso stare girando in giro, no, non è manco, quando lei dovrà qualcosa dopo questi punti, ma è lì che fa, ma pure le rospine è diventato velenoso, basta lì, ha pigliato due gattati, Sara, 25 euro, ma roba la macchina. Stamattina ne ho preso 70, sono andato per comprare due cose, e ho lasciato 70 euro. Poi stavo leggendo una cosa, che Sassa dice che è più caro nei supermercati. Cosa? Non ho capito. Stavo leggendo che Sassa è più caro nei supermercati. Non lo so, però noi siamo a Sassa e dove andiamo a comprare? Dobbiamo comprare qua. Cosa? Non me ne posso andare a posto d'ora, perché ce ne spreca benzina poi, se no sarei andato dove lavoravo io a comprare. No, vabbè. Sto lamentando, però sente a chi tocca. Sono qua. Allo spiro c'è un accidente e mi aveva là. Non c'era, c'era solo un pacco di pacca, un pacco di gnocchi grossi c'era. E gli ho detto a quelli lì, ma cosa abbiamo fatto? La rapina notturna, gli ho detto. No, ci sono venuti tutti qua, dice, non riuscivamo neanche, dice, avevamo tutte le casse impegnate, c'erano. Ci hanno portato via tutto. Beh, meno là quanto c'è rimasta. Perché si è sparsa la voce che il 25 scoppia la guerra. Così stavano dicendo su internet, poi se è una bufala non lo so. Ah, erano scoppiando dal 25. Il 24 deve andare, il Papa a Medjugorje deve andare, e poi si vedrà a quanto sembra. Però c'è anche scritto che in pratica Razzi che sta rompendo le balle, perché e dice il Papa sono io e l'altro, nel Bergoglio non è nessuno, ha detto. Ha fatto un libro e ha scritto così. Ancora più volte lei scoccato. A me non mi è mai piaciuto quel Papa lì. Invece questo mi emoziona quando parla, mi fa un effetto strano, lo sento proprio quando parla. Speriamo bene che qualcuno dall'altro ci protegga. Speriamo bene, adesso deve andare lui a Medjugorje a consacrare non so che cosa. Lui è un prete dell'Ucraina, deve andare di lì, a Medjugorje. Poi si vedrà. In Ucraina sono ortodossi. Ah, quanto sembra un prete russo ci va, metto tu, un prete ucraino ci va. Perché il problema è se, così hanno scritto, poi non lo so se sono cazzate, che in pratica i russi si devono convertire al cristianesimo. Se non si convertono, allora succede la guerra. Da me con la vetta la religione non ha già compreso, ma comunque. Quello lì secondo me è una fessinia, non è niente di vero. Praticamente il popolo russo, il popolo ucraino, è di religione ortodossa. Non so per cosa diretta. Già lo so anch'io quello, c'hanno il patriarca, come lo chiamano, che poi non ha avuto mai incontrare il Papa quest'anno, quindi figurati tu. Vabbè, vedremo in seguito cosa succederà. Tanto c'hanno paura della guerra mondiale, quindi quelli moriranno e basta. Quando poi toccherà la Polonia e l'altro stato, vedrai che allora già si muovono. Sta tranquillo, perché tanto lui, Putin lo sa, dice se faccio fuori l'Ucraina faccio fuori anche la Norvegia e l'altro, perché gli ha già minacciato che dopo tocca a loro, se vanno alla NATO, hai capito? Dopodiché ci passeranno tutto, ormai è diventato scemo quello, è come avere lo zar, capito? Vuole tutto nuovo, vuole arrivare fino a come era una volta con la Jugoslavia che era comunista. Speriamo ci mettiamo d'accordo, se no già ci facciamo pure lui. Avanti a chi tocca. Pensavo solo di averlo letto nei libri di storia, la guerra sembrava una cosa dimenticata, invece a quanto pare è una cosa presente anche adesso. Sì, perché ci sono quei dittatori di merda, cosa vuoi? Cioè, sempre così sarà. Vabbè, ma lo so, ma mi fanno. fanno pena questi pupuri, stanno ammazzando bambini, stanno ammazzando, stanno violentando le donne, ma che dimmagino? Ma sei di per in merda, porci sono. I soldati russi stanno violentando le donne, entrano nelle case, le violentano, le picchiano e poi se ne vanno, a volte le sparano anche. Così si dice in giro, però. Mi sembra questo si stanno sparando anche da soli in Italia, io sì. Poi c'è la foto, sono rimasti dentro l'ascensore, sono rimasti chiusi. In pratica adesso stanno uscendo di testa, sono senza mangiare, no? Hanno chiesto la porta a una donna, ha aperto una donna e gli ha messo un po' di zinco dentro la torta, otto ne ha crepato in un colpo solo, come i tuppi. Suga. Franco, ci sei? Zinco a pugno. Dice mangiate tranquilli, ve la regalo io. Con la fame che ci avevano, se l'ho mangiata, ne sono venuti otto. Fanno ridere, fanno fare la guerra, mi ha dato di sudare a caramato, che non fanno i cagliarugli, è nuda. Ma dove vogliono andare? Sono tutti ragazzini di 18 anni, sono capito. Gli fanno anche pena gli ucraini quando li vedono, gli danno a mangiare, io. Li ha mandati così a fare cadere a macello, mi putti. Lui se ne sta a casa, invece me l'ha preso lui, è in atto, è ammazzato e basta. Sì, gli hanno irradiati pure da tutto, cioè anche dagli sport. E vabbè. E cosa ci vuol fare? Ma farà la fine di Bin Laden, se si invita. Sì, sicuramente. Con l'intelligenza che hanno gli americani, lo sgamano su. Stata dello Giovanni, già, è della FM, in FM? Sì. Magari così manda la pena, no, ma non ti ho sentito l'FM, frate. Ma era un FM io, era un altro canale, stavo provando la cosa. Ah, no, non ti ho sentito. Con questo apparecchio non si sente niente. Ma neanche questo colpi non ne prende. Nulla, se tu ti metti adesso nell'11 non ti sento. Va molto bene. Questo non prende colpi, ecco perché mi piace questa radio, perché non prende colpi. Qual è quella lì? Allora, questo è il Midland dell'80 canali. Ah, quello modificato. No, questo è il Midland, 80 canali, questo è nato 80 canali, capito? Ma piccolo. È come il coso, è piccolo, ma quello c'è il macchina, però c'è lo smitter questo. E non c'è l'FM, c'è 80 canali ma è senza FM, ma dall'FM non me ne ha fatti nulla. Spiegando l'FM. Noi abbiamo una cultura diversa. In Germania e in Francia l'FM la usa la Gogo, come usiamo le live usano l'FM. E invece questo microfono ho trovato una capsula uguale a quella che mi ha dato tu, che c'è un altro microfono tipo quello che era rotto. E c'era la capsula, gli ho cambiato la capsula. Avanti Antoine, che ci racconti di bello? Poveretto. Speriamo che esca qualcosa, a me non esco un po'. Ma a casa sì. No. Che poi là? Là sono, a casa arrivo più forte. E vabbè, non ne sto guardando a segnare. Arrivi bene anche da lì. Però ieri ci avevi qualcosa, cosa era? E provo a indovinare. Pieri. No. Leva. Non è giocato bene. Capito? Come non è giocato bene? Ci ha mai detto che le buccio vulcanizzante di Tugano? Poi gli ho messo vulcanizzante, niente. Devo fare vulcanizzante e poi devo metterli là il grasso, però che non ne tra più Eva. Adesso questi giorni glielo metto. Devo cercarlo a casa il tubetto. Come ho fatto l'antenna mia, però che non ho fatto problemi. E se no rimane il silicone che metto. Li metti il silicone e poi li metti sopra le cose vulcanizzate. Vedrai che non entra più. No, silicone si sente a farti danno. E non danno più. Senti, una bella picchia che non devi smontare. Cosa ti fanno? No, vado dopo smontare, quindi no. Non ne metti quella roba, no. Sì, lo silicone fa del casino da voi. Meglio niente. Come voi a tu, io ti ho dato consiglio pure per il tutto. Molta bagetto lo metti anche nei PL per non entrare là. No, già lo so io, e pongo chissà chi va già a casa, faccio un tubetto. Poi quando duci diventa un pochettino pensato quando prende calore e cosa. Però poi quando tu lo togli rimane lucido rimane. Io quando ho tolto il mio, dentro il piede era lucido, come il primo giorno che l'ho messo. Quindi io li passo quello, perché l'acqua la fa scivolare, capito? Ma il grasso d'estate si asciuga, diventa unico. Se lo fa asciugare il sole, è come se non ci fosse poi. Invece il silicone rimane attaccato. Una volta che li metti il silicone è isolato. Ma già, quando stavi parlando ho provato a spostarmi sull'11, non ti sento per niente. No, ma anche questo qua è buono, non si sente nulla. Non apprende proprio colpi. Buonasera. Che avanti. Ciao Gian. Ciao. Un controllo in Comaufen, chi me lo può dare? Ma io non ho capito chi sei, sinceramente. Chi sei? Tino, sì. Sì, sono dentro il container. Sembravi dal modo di fare, ma non da come parli, perché è diversa la radio da subito. Vabbè, questo è un... Cos'è? 23 canali. No, sto... Si impedono un controllo col Baufen, se possibile. Se ti dà buono... Ma non mi senti già? Non ti capisco bene, io la voce un po' strana. No, sta facendo male il radio, ti non si capisce. Quasi che si va il microfono, ora 1, 2, 3. E adesso va bene. Forse l'ha regolato male le mic. Se mi potete dare un controllo con un Baufen. A me mi sta arrivando Santiago 5, Radio C e Radio 4. E io non ne ho più. E va bene, questo è basso, cosa vuoi dica, fra? Ma va basso il segnale. Sei a 5-6, parlo di più, eh. Cosa pretendete con la Grand Prix? Vabbè, dove stai lavorando? A fianco a casa, ma ho l'antenna in terra. Ah, io allora. È quello, No, volevo sapere se mi potevate dare un controllo con un Baufen. Io non c'ho cosa, non c'ho nemmeno Smitter. Prova a te. Vabbè, ma mi devi dare una frequenza. E qua siamo a 27.0.75. Ho detto un Baufen 446.075, dai. No, non ho io. Allora, niente, dai. Andà bene. Pensavo che lo avevate, dai. Va bene, non fa niente. Riprendi già. Io devo chiudere. Ci sentiamo dopo, se ok, ci sentiamo dopo la casa. Ciao. Antu, ciao. Ma la radio bassa, Fra? No, non è bassa, già è buona, ma non mi piace la radio. Sarà pelosa, capito? Se ho provato con l'altra radio, io sono andato alla radio dall'altro. Spero che provo l'altro, ascoltarti. Tino. Ehi, già. Prova, ti dico se esci bene o male. Va. Con cosa, col Baufen? Tap. Aspetta che imposto la frequenza allora. Vai 446.081. Punto 25. Punto 25, in realtà tu non mi senti però Antonio. Io ti sento, il problema è che c'è l'ospedale, hai capito? Quando io parlo c'è il pronto soccorso, c'è, e ci parlo sopra, capito? Quindi possiamo andare sul canale 6 a parlare, lì non c'è nessuno. C'era solo un cantiere di lì, c'era stamattina. Adesso prendo il telefono, ti dico la frequenza, aspetta che c'è la numero di data. Sì, la prova, canale 6, 446.068.75. Comunque lo senti, qui sei tutto. E questa, ho già, Antonello. Eia, io sono qua, so che... Mi sento tutti quanti io qua, sul 7, solo che non posso entrare. C'è pronto soccorso, hai capito l'ammazzo? senti. A me perché mi hai sentito? Ehi, ti sento io, sento anche a cosa quello che sta parlando con te. Ah, capo. Io ho provato a mettere un'antenna esterna, però bassa, non va bene. Deve essere che non fa massa bene, quindi non ci vuole la base magnetica. Dimmi una cosa, questa radio come va? Se io riesco a alzarla per la pena. Sì, va bene. Se la sollevi, sì. E cavoli. Cosa ridai? Sto è casino, non si capisce nulla. Cioè, ha migliorato secondo te ora? Sì, per me va bene adesso, sì, ti sto ascoltando un'altra radio, va bene. Ciao Fra. E come segnale com'è Fra? 5 sì, su questa radio. Allora l'altra deve essere che riceveva male, non lo so. Comunque, se volete alzo per l'amplificazione, ma poi me ne vado dentro perché qua c'è freddo. Va bene. No, comunque va bene, sì, non ci sono problemi. A me bene, mi ascolti. Sì, i segnali sono bassi qua, io ho l'antenna bassa, quindi non pretendete, ma la radio c'è. Sì, va bene, non mi interessa il segnale, mi interessa la bassa, la radio, a me va bene, la mia, sto già non me lo gatto, Brutta, brutta. Va bene, lascia perdere. Va bene. Cappa. Brutta, brutta, è bella la radio, c'è bene, non è brutta. Sì, sei bello tu, figurati la radio come. Vabbè, io mi sto spostando, ciao, divertitevela. Cava, avanti, Franco, sono rientrato. Ciao, positivo, va bene. Oh, Franco, non è fatta una pena che non ti sento bene. Allora, sollevo, sto scendo con 5 watt. Sto scendo 5 watt e il microfono preamplificato. Basta. Allora, se mi sento in basso è un casino, un problema. Ciao, Blu, buonasera. Ciao, ciao, amico. Ti ho detto delle volte, abbassa il microfono, che è un casino così. Tu si abbassi appena appena, arrivi con una radio bellissima. Ma infatti adesso l'ho abbassato, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lì, dice che c'è Gianni lì, tu che devi la mano a tutti e due. Ma cosa, io c'ho un microfono normale. C'ho un microfono normale, ciao, ciao, buonasera. Ah, bacio di letto! Una volta, cioè, quando sei vicino, il più amplificato ti distrugge, allora è arrivato a forte perché io sono vicino per tutti. Va bene, ciao a tutti, riprendi qua. Ciao ragazzi! Ciao Bruno, ciao Tore, buonasera. Ma si abbassate l'eco tutti e due, buonasera. Si abbassate l'eco tutti e due, vi comprendo più bene. Ma io ecco come ho. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, senza eco. Ecco. Adesso sto uscendo normale. È l'amplificazione dell'apparecchio. Pinocchio. Ah, io vedo a casa te lo posso vedere. Sto uscendo con un CTE di quelli da 12 euro. Se si conferma, sì, è vero Bruno, te lo posso confermare io ho abbassato tutto adesso, guarda se va meglio la radio, se è pulita. Non è che ti sento male, non è che è brutto, però quando si sente appena appena applicazione, una radio un po' distorta, noi siamo vicini, e qua va, va meglio, capito? Va bene, ciao ciao, devo ricevere, siamo noi. Divino. Io esco con il microfono preamplificato, però tutte le cose non si intende. Ma chi si dice no, che non ci ha fatto il cassonetto, il baracchino, cosa? È una roba di poco conto, noi siamo furbi. Allora, è quello che dico io, Allora voglio andare adesso con questo che mi ascolti, dai. Questo è l'apparecchio tuo, Cipri. No, questo sto usando io, l'amico del tuo, capito. Ma io ti sento sempre bene. È una radio molto bella, ma quando tu le appena appena, boh, ci siamo tutti. Comunque, io sto usando un apparecchio là. Bruno Uragano, 34S, il microfono normale, capito? Non ho gatto, 5 watt, no di più. Bruno Uragano! Sì, la massa che vede in varia. Ciao carissimo! Ciao bello! Ma non vedi? Tu hai una bella radio! Hai visto? Arrugginoso! Natali! sì, tu sì che è una bella radio, no Gizzi? Perché questo è il baracchino, deve buttare nel cassonetto. Buttatele via, buttatele via. Ti stanno sovramodulando, lo sai perché? Data lì, perché sono gelosi. Mi sta sovramodulando perché sto uscendo con due vas. Ehi, ma sono gelosi questi qui, hai capito, Natali? Allora, sono gelosi, sono, cazzo. Aiù, quanto mi date vi do la mia radio? Esce a vedere se ti consenti. Non so che buon pendi, a me da rosignare che io non so che buon pendi. Ho detto, esce a vedere se siete contenti, a chi dice che la radio era troppo forte. Ah, ma sì, chi sei tu? Io sto facendo con l'apparecchio 5 watt, omologato, omoloccane, e il microfono suo. Beh, adesso esco con l'omologato e Bruno mi dice come esco. Allora, un attimo, Va fuori dalla finestra e parla con portatile. Infatti, quello dico io, non ci fa più modulare. Fleci, come mi ascolti con questo apparato? Bene, perfetto. 3009. Sono il mito. Già non credo che esci bene. Sai che mi si uscendo i vostri rosetti. Chi è? E avanti chi è? Ma tu che smonti tutto, il microfono è 3009, cosa c'ha? Qualche precompresso? No, è normale, cosa precompresso? Monta la capsula da 600 ohm. Ma se pesa 3 quintali, come fa a essere normale? Quelli normali sono leggerissimi. Se pesa 3 quintali vuol dire che se lo apri c'è un pezzo di metallo dentro. E vuol dire che c'ha la capsula piezoelettrica e hanno fatto come quei microfonini del Mobicon 40, che quando l'ho aperto c'era un pezzo di ferro dentro per farlo pesante, se no pigliava il volo. Vabbè, comunque mi hanno detto che la radio è buona questa qua. Certo che è buona, è la U5 perfetta. Va bene così, allora accontentiamo anche i vecchietti. Ma io ti ascolto bene Gianni, io sto usando il 3000 e 4000, mi ascolti bene? Sì. Cavagava, cos'è questo 4000? Non ho già mai inteso. Il 4005 sto usando, il Connex. Connex? Il Connex, è il Conno, il Connex. Favoraggio che sia. Io il confidenziale nome, il più potente di tutti. Oh Bru, ma a proposito, a me con l'antenna avrebbe risolto, poi, in definitiva. In definitiva io ci sono nel cantiere, stavamo sul tetto, stanno facendo dei lavori, quando terminano adesso, non è da marzo, non terminano, sto potuto salire questa l'antenna, l'antenna è buttata, l'ho buttata in garage, adesso sono salito in macchina, infatti adesso facendo riscaldamento, anche non che va freddo, sono venuto alla campagna, guardo, per chiacchierare là, perché non andrà a casa l'antenna non è più. Senta dalla macchina stai uscendo, senta ogni freddo. Anche la testa, non è cosa fare. Ci ho pensato anche a mettere questa antenna calamitata nella macchina, metterla sul balcone, ma non va, non fa, capito, adesso tiro così qualche volta, poi vediamo se posso salire sul tetto. Tanto c'è anche quell'antenna che avevo comprato, quella specie di antenna che avevo comprato da Fusano. Oh Bruno, non ti conviene adesso far piazzare le staffe e i muratori già che sono su? No, adesso, siccome questo cantiere non è ancora terminato, stanno lavorando, però questi che sono adesso sul tetto sono quelli che piazzano i pannelli, come le pannelli, non le cantiere. Dunque stanno facendo tutti gli impianti. Poi però, come vedremo, salire una posizione, salire un po', ma qua lo posso fare anche io, ma sicuramente non si deve fare staffe come si faceva una volta, murarle, e basta fare dei fori, dei mettere dei tasselli chimici molto corti, anche a tutte le staffe così. Tanto metterò quella specie di boomerang, un po' il cavolo si chiama, quella con il sede, quella con la fusale, a tanto il tempo. La super, cosa è? La mini boomerang o quella più grande? Quella grande, quella che è da 3 mesi, quella lì, perché ne aveva una, mi pare Franco ne aveva una che stava facendo la campagna, per cui diciamo che messa sul tetto andrà sempre bene, adesso io sono stanco, cioè, qua quella che c'ho io, Gianni, la Boomerang, qua c'è in campagna piazzata. Perché non so le condizioni, se io so che ci sarà spazio per poter lavorare, allora metto una telecamera di comanda, capito? Per non stare a decidere sulle cose, perché è un casino, devi passare attraverso l'appartamento di uno, tu c'è sul tetto, poi dove devi passare c'è uno che è all'attico, in poche parole devi entrare dentro il caso, è un casino, andiamo a vedere, va. Scusa, il terrazzo non funziona. Non l'avevo messo, che non andava, mi sentivano più forte dalla macchina che dal terrazzo. Dove sono io risulto un po' più basso rispetto ai palazzi alti che ci sono, certo? Dunque diciamo che è una fortezza di cemento armato tutto intorno. E perché dal terrazzo quell'antenna lì dovrebbe uscire tranquillamente, senza problemi. Vabbè, ma io dove sono io sono fatto tutto anche in quella pianta. Ma figurati che con un'antenna come quella, dove abitavo prima io, al monte, che ero superato i 5 piani e non avevo niente da avanti, ma io andavo dappertutto, con una semplice antenna. Io ho avuto una Grand Prix tutta la vita che io ho buttato via l'anno scorso quando mi sono liberato della roba dalla cantina e non ne sono pentito perché l'antenna era nuova. Tanto ho detto non ne faccio niente, se la girappata non me ne sono pentito perché Grand Prix ne ho chiesto non ne vendono. Sì, lo sai, io c'ho il piantone della Grand Prix. Quella lì andava anche senza spese, mettevi soltanto il servizio centrale. Lo so, io ne ho una in campagna Grand Prix, però gli manca tutto i radiali, quella roba lì, c'ho solo il piantone. E allora, soltanto il piantone per fare a pedale, non funziona lo stesso, non è che... No, adesso devo vedere, se vedo che c'è spazio, che non devo rompere le balle a quello dell'attico, a quel punto non è cosa niente, vado su, compro un'antenna buona e la pianto una volta per tutte, non voglio, anche perché da noi è una zona molto ventosa. Da poco ha fatto un casino, il vento, mi ha buttato un palo dell'Enel, ha fatto molto danno, per cui ci vuole un'antenna molto resistente al vento. Ma ce ne so, c'è una, la Fenox, questa che sto usando io, che costa 50 euro, spedite tutto, 56 euro, una affare del genere. Venom! Vanno bene queste antenne, vabbè, non è bella, è brutta da vedere, però funzionano. Non posso stare lì, non voglio sul tetto, una volta al salto, poi non deve rompere le bande di più. Una volta al salto, non è un'antenna buona, non è neanche una cosa. Natalino, avanti. Comprati la Superlem e non fai un affare. Sai cos'è, prima c'erano tante antenne, io sono veramente fermo. Antenne ricche. Allora le antenne erano buone, c'erano antenne con radiali molto corti, molte antenne non avevano radiali, perché io ho avuto la Ringo tanti anni, sparava molto forte e non aveva rotto le balle del radiale, capito? Forse le 20, forse le 20, ma quelle antenne lì erano belle, andavano bene, poi sono arrivate le antenne moderne e vabbè. C'era la Firenze 2. Adesso quelle che vanno sono la Grazioli, che ha fatto anche la nuova antenna che è 10 metri alta, poi c'è la Genpol, anche questa che ho comprato io, la Lem è molto buona, va benissimo, a me mi ascoltano tutte le parti. E ma c'è molto aperto anche, la zona è sbagliata per tutto da quella zona, non c'è niente da là, c'è molto da là. No, vabbè, il discorso sarà vedere un po' adesso, vedere un po' spazio, non so, non ho detto che faccio bene. Io non sono potuto salire perché per stare sul tetto e passare in un attimo. Adesso c'è le falcature, sto pensando che adesso ci sono quelle falcature del cantiere, che probabilmente poi alla fine prima di smontare chiederò al capocantiere, a questo signore che conosco di vista, se mi fa salire dalle falcature direttamente non ho più le balle a quello dell'attico. Vabbè, si può fare anche così. È solo per alzare l'antenna come ti va? Com'è? Per salire l'antenna come fa? Vabbè, non è che metto l'antenna. Metto un'antenna che si possa piazzare su, non sarà quello il problema. No? Poi qui hanno anche questi veri piedi per fare per portare sul materiale, per cui diciamo anche se fosse quello il problema. Vabbè. Ma il palo lo devi mettere, un palo alto, per farti sentire. Sì, ma ci sono questi pali, questi pali, poi sono pali moderni, sono più belli. E uno di quelli è poi sopra uno di quei pali telescopici che c'erano una volta, sono quelli a due, questi. Sono 2 metri l'uno, tanto non è che la tiro su molto, no? Viste già in alto, per cui diciamo che tutto sommato non voglio fare una cosa che mi crei problemi, poi dopo poco tempo che inveja o che faccio danno. Dicendo invece già più avanti di me c'è una cooperativa, proprio a 50 metri più avanti, 100 metri, e c'è un'antenna lì, un'antenna molto alta, molto bella, perché è l'idea di chi sia. Sì, già lo so di chi è, ma non ce la sta più modulando. C'è da un po' di anni quell'antenna, è stata piazzata bene perché gli ha messo tubo d'acqua, senza tiranti, senza nulla. Non ti fidare di quel tubo telescopico, perché a me me l'ha piegato, e quel vento che ha fatto me l'ha piegato con quel telescopico, ho messo quello d'acqua. Sì, è un sacco di tubi.